preghiere. Amari! Ma mal ti senti? E che facendo c'è? Ehi, ho detto mal ti senti lui. Oh, boh, cazzo. Però mi trovo, ma mangia di sì. No, lo stavo mangiando, Gio, stavo sistemando il computer, che mancavano le coperchie, insomma. E poi mi stavo mettendo i lacci alle scarpe. Guarda, tra un po', guarda, la sciacquata che usciamo. Io non siamo usciti, sono rientrato tardi. Ehi, fai, fai. Vai, piano piano, sempre facendo, vai. Ho sentito a Gianni al telefono, già nel doppio numero, non c'è più nessuno al baracchino già. Mi sa che mi ho tutto, tanto, ma più nessuno. Non ho capito. Ho detto che ho sentito a Gianni doppio rum, gli ho detto che al baracchino non c'è più nessuno. Ho detto mi vendo tutto. E cazzo di compareggia, nessuno. Ho compareggia di un da nessuno, cosa li fate la comparata, dai compareggia? E dai rumenti cosa fate? Ma prima di tutto non le compareggia nessuno. Ma infatti, quando lo vendi vale di nada, poi lo vale di nada il baracchino. E sì, è vero, Allora, c'è anche Giulio che, a quanto ho sentito, sta vendendo il baracchino, boh. Anche Giulio c'è che sta vendendo tutto, mi sembra. Ah, vabbè, comunque, alla fine a me non è che mi chiede niente. Io continuo a pagarlo il baracchino, 12 euro all'anno, l'ho sempre pagato da... Dopo l'ho rimesso tutto, boh, 10 anni fa mi sa. Lo stavo sempre pagando. Perciò non mi interessa, no? Io lo pago tanto. 12 euro non mi vado, né ricco e né povero. Ormai non c'è più commercio qua, per cui infatti. Ma c'è sempre la sera, o c'è Bacchiglio, o c'è Marino, o c'è Ettore, o ci sono io. Ed è sempre su 23 però. Certo che io non mi muovo da 23. Loro parlano su 10 e noi parliamo su 23, così che io a 10 non ci vado e mi rimango su 23, capito? Ecco perché su 10 non c'è più nessuno, nemmeno lì. Infatti, non me ne sono accorto. Comunque, se non sbaglio, da domani o da lunedì inizia il freddo, Arriva il freddo, Giovanni. Ma quando c'è gente ci parlo, quando non c'è nessuno, e che se ne frega? C'è tutto pagato, tanto pare non me ne chiede. E qua, io la mattina, la sera, l'accendo. Se c'è ne ci parlo, se no non mi interessa. Capito? Ascolto, cosa vuoi fare? Dietro ci parlo, sì, ho pazienza. Sì, beh Giovanni, infatti, quando se c'è qualcuno bene, se ho pazienza. Non fa differenza, dai, non. Ripeto, io qua l'ho piazzato, giusto per fare due chiacchiere, ma alla fine mi sa che di un poco brutto. Anche se alla fine non è che dà fastidio, però vederlo lì e non usarlo, cosa? Ma. Ripeto, ieri non c'ero perché sono rientrato tardi, circa alle 8:30, dalle 5:30 del mattino. Vabbè, quando l'ho impegnato, è giusto così. Ripeto, io lo accendo sempre, sia la mattina che la sera, cioè sono a casa. Se non c'è nessuno che se ne frega, però lo accendo lo stesso. Mi guardo il computer o la televisione, se entrano il 27 ci parlo, se non entrano pazienza, cosa vuoi fare? Beh, adesso mi sto guardando la TV e sto parlando con te, vedo un po', e così faccio anche sulla 27, accendo la TV o faccio qualche altra cosa e ammazzo il tempo così, perlomeno io la penso in questo modo. Poi, chi vuole entrare entra, chi non vuole entrare vedrà lui cosa fare. Oh, vabbè, capita anche a me, magari. Non voglio parlare. Capito, mi guardo la TV, magari rimango in ascolto. Giusto così due chiacchiere, poi magari non rana, io magari mi stacco, magari rimango così in ascolto. Molte volte lo spengo, dipende dalla voglia, dai. Come tutti, ovvio, Più o meno siamo un po' tutti così, capito? Impegni magari una cosa o l'altra e cosa ci vuoi fare? Purtroppo anche il PMR, per dire prima, c'era la foga che ha tutti il PMR, ma raramente qualcuno che entra, capito? E cosa vuoi fare? Cazzo, andiamo da fare lui, una cosa o l'altra, e ammazziamo il tempo lo stesso, un po' giù, un po' su, e tira a campare, cosa vuoi fare? Ma sì, ma infatti, ce ne vuole anche voglia di entrare, vai, la gente poi si è stufata, con la scusa che hanno il computer, o la scusa che hanno il telefono di ultima generazione, sono queste cose. Si usano WhatsApp, vabbè, quelli che tu pushi total, come non ti digiamma, tipo col baracchino del telefono. Tutte queste cazzate, mira, adesso il baracchino che diciamo la radio originale è questa, non è quella del telefono. Cioè la vera radio è questa. È quello che dico anch'io. E molti se ne fanno con il telefonino, ascoltano là, dice che parla, ma a me non mi interessa quella lì. Questa è la radio dove si può parlare personalmente, per cui siamo tranquilli, capito? A me non mi è piaciuto, infatti, no, me la volevo installare, ma non ne voglio loro. No, c'ho il baracchino e per cui mi sta bene, se c'è gente ci parlo, se no non mi interessa, cosa è? Già ne ho altre cose da fare io. Però ce ne sono parecchi che ci tengono a parlare tramite il telefono, capito? Ma tutti quali lo siamo. Ma infatti, io all'inizio sì, entravo, ho parlato con qualcuno, poi quando c'avevo l'altro telefono, non lo so cambiato, l'ho resettato, ho cancellato tutto. E non l'ho più installato, io non me ne frega niente. Poi magari, se non c'è nessuno qua, magari non so cosa fare, magari me lo potrei anche installare, rimango in ascolto, chi se ne frega, non giusto così, ma se l'inverno sta arrivando, ha detto da domani o da lunedì inizia a piogge e freddo, inizia a metterti in moto la stufa a pelle, ti giovani. Lascia fare, gli ha fatto la baracca, io non ti preoccupare lui, niente, se fa già fa bene, dai. Alla fine cosa ci fare? È tempo di fare acqua adesso, no? Tempo suo, per cui se deve fare lasciamola fare, perché tanto c'è che puoi dire non è fare, lasciamola fare che ci fa bene l'acqua, più ce n'è meglio è. Bene, effetti così. Giovanni, adesso mi lascia quarta e ci sei dopo, magari entro. Adesso c'è anche il baracchino acceso, tanto ancora non stiamo uscendo, ma tra un po' sì. Magari ci salutiamo dopo, dai. Il ghiaccio sta acceso, quello e l'altro, per cui tanto ci sono guardato la TV e gli apparecchi sono accesi, d'accordo, ci sentiamo, dai. Ciao. Ciao Giovanni. Giovanni, se ne ascolto, io sto uscendo, ciao, a domani se Dio vuole, buona serata. Ciao, ci sentiamo, ciao.